nel viaggio senza fine dell'assenza con Federico Cavrocchi e Chiara Albicocco. Sto quasi pensando di cambiare nome. Finché non ci bacchetteranno dalla direzione, noi useremo questa sigla non ufficiale. È la nostra più giovane ascoltatrice. La salutiamo. Ciao Arianna, se ci stai ascoltando. Arianna, buone vacanze. Allora, i temi di questa puntata. Tutti conosciamo il canale di Suez, bene, ce ne saranno due fra poco. Eh sì, e vedremo quali sono le conseguenze anche di tipo ambientale, oltre che ovviamente commerciale. E poi invece parliamo di Plutone, se ne è tanto parlato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, ma che cosa davvero questa sonda New Horizon ci ha fatto scoprire di questo Plutone misterioso? Partiamo! Nei giorni scorsi si è aperto un secondo canale di Suez, non è esattamente un raddoppio in termini di lunghezza, però insomma il canale di Suez porterà più navi nel Mediterraneo. Infatti tu dici porterà più navi perché dal punto di vista, come dire, economico, commerciale è un grande evento. È un fatto anche positivo per molti aspetti. Ma dal punto di vista ambientale? Ecco, è così? Non proprio. Ne parliamo con Anna Occhipinti. Buonasera Occhipinti. Buonasera. E con Agnese Marchini. Buonasera Marchini. Buonasera. Siete entrambi ricercatrici, anche docenti al Dipartimento delle Scienze della Terra dell'Università di Pavia e insegnate appunto ecologia. Allora, quali sono i problemi per questo raddoppio? Anna Occhipinti. I problemi di questo raddoppio riguardano il fatto che fin dalla sua costruzione, la prima costruzione, il canale di Suez, che è avvenuta l'inaugurazione nel 1869, hanno cominciato a entrare in Mediterraneo diverse specie cosiddette aliene non indigene che hanno colonizzato con successo il mare, soprattutto il mare Egeo. Queste specie hanno continuato ad arrivare molto lentamente all'inizio perché c'erano delle barriere saline determinate dalla presenza dei grandi laghi a mari che hanno consentito il passaggio di queste specie. Nel tempo però la salinità di questi laghi a mare è stata diluita dal passaggio delle acque e quindi abbiamo avuto sempre più casi di specie arrivate nel Mediterraneo che qui si sono trovate bene, hanno proliferato e si diffondono. Ultimamente poi queste sono specie che arrivano dal Mar Rosso, dall'Oceano Indiano, quindi sono specie cosiddette termofile che stanno bene nell'acqua calda e mentre fino a un po' di anni fa erano confinate nel bacino levantino, con l'attuale riscaldamento del Mediterraneo si stanno espandendo verso occidente, alcune sono arrivate anche in Italia. Ecco, l'alta salinità era una barriera, bisogna dirlo. Era una barriera molto forte, l'alta salinità era una barriera molto forte, poi c'è stata questa diluizione, quindi questa barriera è andata via via decrescendo. Quando sono stati costruiti la salinità di questi laghi a mari era intorno al 70 per mille, quindi 70 grammi di sale in un litro d'acqua. Tenete conto che il Mediterraneo ha una salinità intorno al 36-37 per mille e poi via via è andata diluendosi, quindi non c'è più stata questa barriera alina. E queste specie sono continuate ad arrivare sostanzialmente e abbiamo esempi di specie anche parecchio preoccupanti perché sono specie che, come abbiamo casi di una medusa che può formare degli sciami anche lunghi centinaia di chilometri, quindi oltre a creare danni alla pesca, al turismo, costituisce anche una fonte di sottrazione di organismi del plancton ai pesci, quindi poi si ha anche una diminuzione del quantitativo di pescato. Sì, un'influenza poi su tutta la catena alimentare. Esatto, con ripercussioni su tutta la catena alimentare. E pensiamo che insomma la cosa potrebbe peggiorare, cioè potrebbe allargare diciamo questi fenomeni che lei ci ha descritto in maniera peggiorativa. Certamente, perché questo canale comunque sarà più largo e anche più profondo, quindi il flusso di acqua che prevalentemente ha un andamento da dal Mar Rosso al Mediterraneo sarà sempre maggiore, quindi consentirà il passaggio di un numero maggiore di organismi adulti, ma anche di larve, di pesci, di molluschi, di crostacei. Ecco, infatti con Agnese Marchini proviamo a capire, lei appunto ha fatto anche un calcolo, ha valutato anche in termini numerici le specie, la qualità di questa intermediazione, appunto un po' in termini anche negativi purtroppo. Devo dire che i numeri cambiano, non dico di giorno in giorno, ma di settimana in settimana, nel senso che noi revisioniamo la letteratura, le notizie, sono sempre più frequenti questi nuovi arrivi dal canale di Suez. Al momento faccio conto che in totale nel Mediterraneo abbiamo circa 720 specie non indigene, di cui ben 450 arrivano proprio dal canale di Suez, quindi più della metà. In continua crescita. Poi con questo raddoppiato canale si teme che il fenomeno si aumenti ulteriormente, e di queste specie alcune stanno arrivando appunto anche in Italia. Ad esempio nell'ultimo paio d'anni è arrivato questo pesce palla, che è pericoloso anche per la salute umana perché produce una neurotossina 100 volte più potente del cianuro, tossico anche se mangiato cotto, e ha già provocato delle vittime nel Nord Africa perché la gente non conosce questi pesci, i pescatori vanno, trovano questi perché poi ovviamente si sostituiscono alle specie native, li mangiano e sono pericolosi. E questo ad esempio è già stato avvistato negli ultimi 2 anni Lampedusa, Ragusa, Salerno, Bari e Messina. E qui bisognerebbe attivare un'enorme campagna, insomma, di comunicazione anche per far comprendere la pericolosità di questa specie. Sì, la comunicazione da questo punto di vista è molto indietro, perché poi il cittadino le specie del mare le percepisce spesso come naturali, spesso il nemico è la cosa chimica o l'OGM eccetera, quindi un animale, un pesce non viene percepito come appunto un nemico, di fatto loro non invece hanno colpa. Può esserlo. Ad esempio questo pesce è stato, il nome scientifico è Lagocephalus sceleratus, però lui poverino non è scellerato, gli scellerati siamo noi che lo facciamo, gli diamo un'altra direzione. Che Pinti, in chiusura, cos'è che si potrebbe fare però adesso per limitare, bloccare insomma perché questa... cosa avremmo potuto fare, ormai è troppo tardi. Quello ormai è fatto. Sì, certo, ormai è fatto, si sarebbe potuto fare una valutazione dell'impatto ambientale, perché comunque queste cose a livello scientifico sono note e discusse da tempo, ma sono state fatte delle proposte, ad esempio di utilizzare il sale degli impianti di desalizzazione e rimetterlo all'interno del canale in sorta di piscine sovrasalate per bloccare, per fungere da barriera al passaggio di queste specie. Io tecnicamente questa è una cosa che dovrebbero ovviamente risolvere gli ingegneri, ma dal punto di vista biologico questo ripristinerebbe le condizioni iniziali del canale. Potrebbe essere uno strumento efficace. La tecnologia non manca, per questa poi è un'opera talmente faraonica, il termine faraonico ci sta bene, talmente grandiosa, che penso che aver messo in progetto un sistema di salinizzazione di questo tipo non ci potrebbe stare. Però noi lo escludiamo che sia stato preso in considerazione? Per quanto io ne so, direi proprio di sì, cioè non è stata fatta anche in questo senso un'interrogazione, sì, c'è un appello, no? Firmato. Al Parlamento europeo, e credo che però la cosa non abbia avuto seguito. Comunque tutti gli scienziati a livello mondiale si sono mossi sottolineando la pericolosità di questo raddoppiamento del canale, tenuto conto anche della straordinaria biodiversità del mare Mediterraneo, che pur essendo un piccolo bacino, cioè in termini di superficie il Mediterraneo rappresenta l'1% dei mari mondiali, ma è molto ricco. Biodiversità rappresenta il 10% della biodiversità mondiale, quindi è qualcosa che si dovrebbe preservare, conservare mantenere. Molto. conservare. Allora, è chiaro che nulla è fisso, tutto cambia, l'evoluzione è all'opera, però i tempi dell'evoluzione sono dei tempi molto lenti e l'uomo sta terribilmente accelerando questi mutamenti, quindi le specie non hanno tempo di adattarsi. Quindi una specie che arriva senza competitori, senza predatori, può dare davvero luogo a delle invasioni e sostituirsi alle specie indigene. Va bene, speriamo. L'ennesima cattiva notizia. Va bene, grazie Anna Occhipinti e Agnese Marchini, buon lavoro, grazie, buona ricerca. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Veloci, ora sul traffico. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È più di un mese e mezzo ormai che arrivano immagini della missione che ha fotografato Plutone, adesso dovrebbero arrivarne mano a mano di immagini molto più definite, ma noi vogliamo, sulla base delle informazioni che sono uscite appunto in questi primi tempi dopo la missione, vogliamo provare a descrivere alcuni aspetti che probabilmente non sono particolarmente noti ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, e per farlo abbiamo qui con noi questa sera Amedeo Balbi. Ciao Amedeo. Ciao. Ci diamo del tu perché sei un astrofisico, insegni a Tor Vergata a Roma, però sei anche un divulgatore, scrivi articoli e infatti di Plutone hai scritto sul numero del mese scorso delle Scienze, un articolotto dove metti insieme tutto un insieme di cose interessanti. Però vogliamo fare inizialmente, cosa dici Chiara, una specie di scheda di base? Sì, allora sulla la missione. Certamente ha avuto il suo grande eco su tutti i giornali, televisione, ma abbiamo sì, visto, ma anche queste immagini che abbiamo visto di questo bellissimo pianeta con questo cuore, insomma, scusate il romanticismo, romantico. Però insomma, Amedeo, se ci dai così qualche fondamentale, la carta d'identità di questa missione, di questa sonda New Horizon che ha sfiorato il Plutone. Dunque, è una missione che in realtà è partita oltre 9 anni fa, è stata lanciata nel gennaio del 2006. Addirittura quando è stata lanciata la sonda, Plutone era ancora considerato il nono pianeta del sistema solare. Insomma, noi quando andavamo a scuola ci avevano insegnato i pianeti erano 9, e poi nel 2006 invece ci fu una riunione della Unione Astronomica Internazionale che ha declassato Plutone, cioè lo ha trasformato da pianeta a pianeta nano. Non senza polemiche perché non tutti sono stati contenti di questa cosa. C'è gente che non l'ha ancora digerita, ma fa niente, insomma. Beh, a noi un po' dispiace, ma sarebbe nano perché è anche al di sotto di un certo diametro. Dunque è un non solo questo, una definizione un po' più complessa. Nel caso di Plutone, il requisito che Plutone non soddisfa è quello di non avere molti altri corpi celesti sulla stessa orbita, cioè di non aver ripulito completamente la propria orbita. E Plutone appunto effettivamente oggi sappiamo che è un oggetto che fa parte di una fascia che viene chiamata fascia di Kuiper, perché è fatta appunto da detriti più o meno grandi rimasti dal periodo primordiale della formazione del sistema solare, e quindi appunto non viene più ritenuto un pianeta vero e proprio, ma viene ritenuto semplicemente un oggetto molto grande di questa fascia di Kuiper. Quindi quando New Horizon è stata lanciata nel 2006 le cose stavano in questo modo. Durante il viaggio Plutone è stato declassato e adesso la sonda è arrivata da quelle parti viaggiando a una velocità pazzesca, cioè la sonda più veloce che è stata lanciata dagli esseri umani. E questo spiega come mai la velocità te la ricordi? Perché qual era? Che ordine di grandezza era? Dunque, la velocità siamo nell'ordine dei 50.000 chilometri all'ora in una unità di misura con cui siamo, diciamo, un po' familiari. Per dare un'idea, se uno avesse fatto il viaggio dalla Terra a Plutone in automobile invece che in sonda, con questa sonda spaziale ci avrebbe messo 7.000 anni. Con un aereo di linea ci avrebbe messo più di 600 anni, insomma, quindi Plutone si trova a diversi miliardi di chilometri dalla Terra, che in economica sono tremendi, 600 anni. Però è passata vicinissima, 12.000 chilometri di altezza nel punto più vicino. Nel punto di massimo avvicinamento, che appunto è quello che si è raggiunto il 14 luglio, è passata a circa 12.000 chilometri, che insomma a distanza ragionevolmente piccola. Plutone ha un diametro diametro intorno ai 2000 chilometri, quindi questo dà un'idea insomma della distanza a cui è passato New Horizon. Senti, una cosa che ci ha un po' sorpreso è che è 2000 chilometri circa di diametro, quindi uno si aspetta che abbia una massa, un sesto di quella della Terra, che è 12.000 chilometri, invece è venuto fuori con una specie di palloncino, cioè una densità dello 0,2 rispetto al nostro pianeta. Come mai? Beh, la nostra Terra è fatta di cose abbastanza dense e pesanti, appunto ferro, silicio, insomma materiali che hanno una densità piuttosto alta. Plutone è fatto in larga parte, pensiamo, almeno questo è quello che si stima in base alla densità, è fatto soprattutto di ghiaccio d'acqua, e quindi ha una densità di poco superiore a quella dell'acqua, e questo spiega perché la massa non sia confrontabile, appunto, con, cioè data quel diametro, insomma la massa sia più piccola di quella che ci si aspetterebbe se la densità fosse uguale. Ma quindi anche Giove, che anche quello mi pare sia un grande ghiacciolo, ma è enorme rispetto alla Terra, però probabilmente è, beh, forse un po' di più della Terra, di ghiacciolo ce n'è tanto lì, dico, però è molto non denso come se fosse fatto di terra, insomma. Giove è molto, molto più grande della Terra ed è in realtà un pianeta gassoso, cioè in larga parte è fatto di idrogeno gassoso, e all'interno addirittura di idrogeno liquido, perché lì la densità diventa molto elevata, e poi probabilmente all'interno ha anche un nucleo solido di materiali più pesanti, però diciamo è in larga parte una grossa sfera gassosa. Nel caso di Plutone invece no, parliamo di un corpo solido, però di un solido ghiacciato, ecco, di ghiaccio d'acqua. E senti, la sonda New Horizon, passando così vicino, diciamo che ha visto soltanto una faccia di Plutone, che è un po' quella anche delle foto che abbiamo visto, o in realtà ha scattato una serie di foto, di immagini, proprio. È riuscita a vederlo un po' tutto? Dunque, come dicevamo prima, ha fatto questo passaggio molto rapido, perché la cosa interessante di questa missione è che è stata proprio è stata sparata praticamente, e per contenere proprio la massa della sonda e quindi permettergli di arrivare prima possibile al pianeta, non è stata dotata della possibilità di manovrare, cioè non poteva essere frenata, non poteva avere appunto dei razzi che gli facessero cambiare rotta, e quindi l'unica cosa che ha potuto fare è proprio passare come un proiettile nei paraggi di Plutone a quella velocità pazzesca che dicevamo prima. Però nonostante questo, siccome Plutone ruota intorno al proprio asse all'incirca in 6 giorni, e la sonda insomma ci ha messo comunque qualche giorno per transitare nei paraggi di Plutone, è riuscita comunque a fare foto a sufficienza per avere una mappa completa di Plutone e anche della sua luna principale, perché ricordiamo che Plutone ha anche una luna che si chiama Caronte, che è un pochino più piccola, che forma con Plutone peraltro una specie di sistema doppio, di sistema binario, insomma sono due corpi celesti che hanno quasi la stessa grandezza. Sì. E i dati che sono stati rilevati sono tantissime foto, cioè una mitragliata di foto praticamente? Sì, ha fatto foto ovviamente a ripetizione, e tra l'altro appunto nel periodo del sorvolo, nel momento in cui ha raccolto i dati, ha fatto soltanto quello, cioè ha fatto solo raccolta di dati, quindi foto, ma non soltanto foto, ha anche raccolto altri dati dello spettro del pianeta, insomma per cercare di capire la composizione, dati che poi verranno analizzati con calma. Però appunto mentre è transitato lì, proprio per essere sicuro di non sprecare neanche un briciolo di tempo, ha fatto solo raccolta dati e non ha mandato niente a Terra. Sì, sono dati appunto che vengono analizzati sulla Terra, però ci devono arrivare, è facile questo trasporto di dati enorme. Questo è un buon punto, questo è un punto interessante, perché come dicevo non li ha inviati subito e li invierà da adesso, da subito dopo insomma la missione, per i prossimi mesi, addirittura per inviare a Terra tutti i dati che ha raccolto appunto in quel passaggio a metà luglio, impiegherà circa un anno e mezzo. Perché? Perché i dati raccolti sono tanti, si parla di centinaia di giga di dati, ecco, per avere un'idea di quant'è la mole di dati, che vengono però inviati a Terra non alla velocità dei nostri modem attuali, ma a una velocità più bassa dei modem più antichi che abbiamo mai avuto, a una velocità di un un kilobit al secondo, quindi è più lento di un modem di quelli vecchi a 50, di quelli di una volta che facevano per andare in rete. Ci sono i ricercatori della NASA che li aspettano così, li prendono in braccio proprio. Sì, sì, ci vorrà molto tempo, ma questo è stato fatto sia per essere sicuri di non commettere errori, perché un trasferimento di dati più lento mette a riparo da possibili errori di trasmissione, e sia perché poi questa sonda, tra l'altro, un'altra cosa interessante è che spreca pochissima energia, perché ovviamente, di nuovo, per contenere il peso e la massa della sonda è stata proprio ridotta all'osso tutto quello che trasportava, e viene alimentata da sostanzialmente un sistema che funziona con del materiale radioattivo, con del plutonio, guarda caso. Il plutonio aveva preso il nome da Plutone, dal pianeta, e adesso per una coincidenza il cerchio si è chiuso, perché la sonda che va a osservare Plutone è alimentata da Plutone. E tutto questo per dire che la sonda comunque è estremamente parca nei consumi energetici, consuma più o meno 12 watt, e quindi anche questo ci fa capire che non può trasferire dati a velocità pazzesca. Sì. Ma Amedeo, allora riusciamo un po' a riassumere, insomma, quali sono stati intanto i risultati che fino ad ora siamo riusciti ad ottenere? Che cosa abbiamo capito in più di Plutone? Allora, intanto l'abbiamo visto per la prima volta, che è una cosa che può sembrare trascurabile, ma invece non lo è. Qui appunto parliamo proprio di un mondo del nostro sistema solare che non era mai stato visto prima. Da quando era stato scoperto nel 1930, le immagini migliori che avevamo le avevamo fatte con il telescopio spaziale Hubble, ma erano comunque immagini molto sfocate, che facevano vedere un poco più che un puntino e con qualche macchia, un pallino, con qualche un po' macchia, con qualche variazione superficiale di luminosità, che non dava assolutamente un'idea chiara di quale fosse la superficie. Adesso con New Horizons noi l'abbiamo proprio visto, abbiamo visto com'è fatto, abbiamo visto la superficie. Nel caso delle poche immagini che già sono arrivate ad alta risoluzione, si cominciano proprio a vedere delle strutture interessanti sulla superficie del pianeta. Una cosa appunto che è stata scoperta è che ci sono delle montagne alte fino a 3500 metri, probabilmente fatte di ghiaccio, appunto come dicevamo prima, il ghiaccio è probabilmente uno degli elementi principali che troviamo sulla superficie di Plutone. Un'altra cosa interessante che è stata scoperta proprio da questa immagine alta risoluzione è che sorprendentemente non ci sono crateri da impatto sul corpo celeste, su Plutone. Questo cosa significa? Questo significa che, siccome noi sappiamo che in realtà tutti i corpi celesti hanno una certa probabilità di essere colpiti da asteroidi, da meteoriti, insomma con una frequenza lunga rispetto alla vita umana, ma breve rispetto alla durata dei pianeti e del sistema solare, non trovare nemmeno un cratere provocato appunto dall'impatto di un asteroide o di un meteorite significa che la superficie di Plutone è molto giovane, sempre su scala geologica, cioè ha subito un qualche tipo di modificazione che ha cancellato le tracce di questi impatti, di questi crateri. E questa è stata una sorpresa, perché non ci si aspettava di osservare una cosa del genere. Caronte, per esempio, la luna di Plutone, che sta lì praticamente a un tiro di schioppo da Plutone, è diversa. Presenta delle tracce di crateri, quindi significa che Plutone ha proprio delle caratteristiche diverse dal punto di vista geologico, cioè ha una qualche attività che ne modifica la superficie. Amedeo, vogliamo scommettere che, siccome la sonda è arrivata, come dicevamo prima, verso Plutone e ha incominciato a fotografare, però alcune parti del pianeta erano lontane, poi dopo ne ha fotografate altre molto più vicine, secondo me ci siamo persi un benvenuti da parte dei plutoniani. Sono sicuro che quella parte lì non l'abbiamo fotografata, abbiamo perso un'occasione, sono nascosti da qualche La sfortunaccia in questi casi dopo anni e anni che si erano preparati. È possibile, anche se in realtà lo vedo poco probabile, perché appunto la superficie è stata fotografata tutta, quindi la vedremo tutta quanta prima o poi, certo, però visto che passerà parecchio tempo prima di vederla tutta, magari ci saranno ancora delle sorprese, magari ce l'hanno scritto da qualche parte. Infatti. Un benvenuti. Va bene, grazie davvero Amedeo per questo viaggio su Plutone. Grazie a voi, grazie, ciao. Oh, dunque, noi ci siamo anche dal lunedì al venerdì quest'estate. Sì, una versione estiva di Mebius in cui facciamo riascoltare un po' le performance migliori. Siamo in onda dal lunedì al venerdì alle 21.30 e poi, come sempre, il sabato alle 21, lo sapete. Quindi buona settimana a tutti e a tutte.